debolmente scosso ed agitato, in delirio sotto un palco illuminato. Ti vedevo volare come una farfalla nera in sogno, proprio quello di cui avevo bisogno. Sì, proprio così, la mia dolce pantera, la mia splendida gioia nera. Eva, come faceva e si muoveva, ed io sognavo, lei rispondeva, come cantava in quella sera, stella lassù, come Prozac più, come Prozac. Come Prozac più, come Prozac più.